Giuseppe Lippi, curatore per l'editore Mondadori di tutta la diciamo linea delle collane di fantascienza, di horror, di fantasy, di giallo, poca roba, prosegue nella sua via di recupero filologico, per così dire, di alcuni autori delle origini dei generi, di questi generi moderni nel XX secolo, e ci propone per la collana Gli Omnibus del Fantastico, cioè la collana rilegata di Mondadori, una vecchia e ormai introvabile in italiano antologia di Robert Bloch. Era già stata tradotta una decina d'anni fa, se non vado errato, dall'editore Siad, ma è ormai fuori commercio. Il titolo è Colui che apre la via, The Opener of the Way. Colui che apre la via, naturalmente, vi lascio bene immaginare chi possa essere e di quale via si possa trattare, trattandosi di un autore come Robert Bloch, che da noi è principalmente noto ovviamente per avere scritto il romanzo da cui è stato tratto il celeberrimo Psycho di Hitchcock, e quindi che noi è un autore che noi in qualche modo siamo portati ad associare all'horror o al thriller psicologico. Ma questa antologia invece, edita nel 1945, contenente racconti scritti tra la fine degli anni 30 e il 43-44, ci fa invece vedere le origini di Robert Bloch, scrittore, cioè ci fa capire come Bloch, cosa peraltro esplicita in molte cose che lui ha detto, scritto, eccetera, sia un originale certamente, ma sicuramente continuatore di Howard Phillips Lovecraft, e quindi affondi le sue, diciamo, radici in quella variante americana della letteratura gotica, da cui poi certamente negli anni 60 Bloch cominciò a distaccarsi, inaugurando forse lui per primo, prima ancora di King, e questo King lo ha più volte riconosciuto, quella via nuova dell'horror che poi vede invece in King da un lato, in Barker dall'altro, i suoi profeti così più riconosciuti. Quindi può essere interessante andarsi a rileggere questa antologia di una ventina più o meno di racconti di diseguale valore naturalmente, i quali appunto da un lato rivelano l'origine e la matrice lovecraftiana, valga per tutti Il divoratore giunto dalle stelle, racconto semi-horror, semi-fantascienza dedicato esplicitamente a H.P. Lovecraft, o Il festino nella abbazia, che invece risente moltissimo di ambientazioni e di fenomeni gotici. Si tratta certamente di un horror per certi versi un pochettino datato anche come stile, ma in cui si vede già, nota già molto forte la buona capacità di Bloch di padroneggiare, come dire, l'idea e di renderla in uno stile, anche se non entusiasmante, perlomeno sicuramente buono, insomma, sicuramente controllato. Vi vorrei segnalare fra tutti questi, diciamo, racconti uno abbastanza divertente, anche se basato su di una idea tutto sommato non troppo originale, che è Il sinceramente vostro Jack lo Squartatore. Ve ne parlo perché alcune settimane fa, o forse un paio di mesi fa, vi segnalai l'antologia Dangerous Visions, che reca un altro racconto di Bloch scritto molto più tardi, sempre su Jack lo Squartatore, e un seguito di Harlan Ellison abbastanza divertente. Bene, questo qui potete leggere l'originale, diciamo, racconto di Bloch su Jack lo Squartatore del 1943, in cui egli immagina il prodromo di quello che immaginerà alcuni decenni più tardi, cioè che Jack lo Squartatore si sia trasferito negli Stati Uniti e in qualche modo non sia soltanto uno psicopatico, ma in qualche modo sia legato a dei culti misterici, a dei culti di... Ecco. Quindi, insomma, leggetevi, se avete voglia di trascorrere qualche ora non certamente serena e felice, con un po' di brivido, ma anche con una certa condiscendenza, perché ormai certamente i brividi a cui siamo abituati in questi anni non sono certamente più quelli a cui che era in grado, grosso modo, di suscitare Robert Bloch nei propri lettori, ma così per andare a, appunto, vedere come i lettori degli anni 40 o dei primi anni 50 si procuravano quei brividini nella schiena che tutti i lettori di libri e gli spettatori di film horror amano sentirsi scorrere quando leggono queste pagine. Quindi Riassumo, Robert Bloch, Colui che apre la via, edizioni sono Mondadori, nella collana Omnibus del Fantastico, è una edizione rilegata, le pagine sono 386, le lire sono 28.000 e vi lascio i miei migliori auguri per la prossima settimana, ci risentiamo fra 7 giorni.